Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via libera da Bruxelles all'ingresso della Croazia nell'area Schengen. Ora i confini del paese per i migranti in viaggio sulla rotta balcanica saranno anche quelli dell'Unione Europea. Trieste fa il pieno di turisti per il weekend dell'Immacolata. Lavorano bene anche gli hotel aperti sulla costa in montagna. Delusione per la poca neve, ma si punta al tutto esaurito per Capodanno. Per fare fronte alla mancanza di personale nelle amministrazioni, a Cormons 10 comuni uniscono le loro forze e danno vita alla comunità del Collio. Oggi e domani in Piazza Unità Trieste la raccolta natalizia di giocattoli e dolciumi destinati ai bimbi della città ucraina di Mykolaiv, una delle più martoriate dalla guerra. 300 tonnellate di sabbia e 2 mesi di lavoro per raccontare storie e leggende del primo cristianesimo inaugurato il presepe di Lignano, ispirato quest'anno ai mosaici di Aquileia. Oggi e domani 2 convegni dedicati a Gorizia, dal trauma del confine della guerra fredda ai giorni nostri. Studi recenti gettano nuova luce sulla spartizione del territorio a fine anni 40. La triste storia dell'amore tra Rodolfo e Mimì sul palcoscenico del Verdi di Trieste, con un cast di giovani interpreti questa sera, la prima della Bohème diretta dal maestro Christopher Franklin. Sempre questa sera, ma sul palco del Teatro Miela, il racconto teatrale della lunga strada di sabbia di Pasolini, scritto e diretto dal regista Massimo Navone. Le 7.19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è coperto con piogge sparse sulla regione, deboli nevicate in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 9 gradi, a Gorizia 6, Udine 5,5, Pordenone 5, Tolmezzo 3, Forni di Sopra meno 1 grado, Piancavallo meno 1,5, Tarvisio meno 2,5, Sappada meno 4, Monte Zoncolan e Monte Sari meno 2,5, Lignano e Grado 7,5. Le previsioni meteo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata di oggi: cielo coperto con piogge da moderate ad ovest a intense a est. Sul Golfo di Trieste probabile vento da sud, anche sostenuto, moderato da nord in pianura e fascia lagunare. Di primo mattino quota neve oltre i 500 metri circa, in rialzo in giornata con l'intensificazione delle precipitazioni oltre i 1500 metri sulle Prealpi e gli 800-1000 metri circa sulle Alpi. Sulle Giulie potrà nevicare intensamente fino a Fondovalle per gran parte della giornata, miglioramento poi dalla serata. Ieri pomeriggio è arrivato l'atteso via libera dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio la Croazia entra nell'area Schengen, oltre che nell'area euro. Dal prossimo anno dunque si potrà andare da Trieste a Dubrovnik senza esibire alcun documento alla frontiera. Non vedremo più le file che in piena estate si formavano ai valichi tra Slovenia e Croazia. Se la domanda di adesione a Schengen della Croazia è stata accolta dai ministri degli affari interni dell'Unione, quelle di Romania e Bulgaria sono state respinte a causa del veto austriaco, motivato con i rischi di ritrovarsi con flussi incontrollati di migranti dal corridoio sudorientale. Da gennaio invece la Croazia diventa frontiera dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto al giornalista Giovanni Vale, corrispondente da Zagabria per diverse testate giornalistiche, se la Croazia dà maggiori garanzie in tema di contrasto all'immigrazione irregolare. Sentiamo. Dai primi mesi di quest'anno la politica, e soprattutto da quest'estate, la politica della Croazia sembra essere cambiata un po', e la polizia croata distribuisce dei fogli di via che danno ai migranti 7 giorni di tempo per lasciare la Croazia e lo spazio economico europeo. In realtà i migranti con questi fogli di via possono attraversare la Croazia, raggiungere la Slovenia e poi l'Italia o l'Austria, insomma. E questa è un po' una novità. Fino all'inizio dell'anno invece le persone erano molto spesso respinte con la forza, e soprattutto se riuscivano a entrare in Croazia dovevano attraversare il paese di nascosto e non potevano usare i mezzi pubblici, cosa che invece adesso possono fare con questi fogli di via. Questi fogli di via potrebbero essere la ragione dell'aumento del flusso sulla cosiddetta rotta balcanica? sicuramente sono uno dei motivi, sì, per cui quest'anno c'è stato un aumento dei flussi sulla rotta balcanica. Frontex, no, ha registrato, se non sbaglio, un aumento del 170%, e la rotta balcanica è quest'anno la rotta più utilizzata, più usata rispetto al Mediterraneo centrale, ad esempio. Non è detto, tuttavia, che questa politica resti dopo l'ingresso in area Schengen? Assolutamente, io penso che la Croazia abbia in qualche modo adottato questo nuovo comportamento più legale, diciamo, proprio per le critiche delle associazioni, e quindi insomma la Croazia ha dovuto in qualche modo cambiare comportamento, ma con l'ingresso in Schengen penso che riprenderanno con il comportamento di prima e con la violenza. E a proposito di migranti, l'associazione di volontariato Linea d'Ombra ha diramato un duro comunicato in risposta alle parole del sindaco di Piazza, che aveva annunciato nei giorni scorsi su Twitter di non voler fare più nulla per assistere i migranti a causa dei danni provocati da alcuni di loro nel centro di prima accoglienza a Camposacro. Scrive Linea d'Ombra: alla irricevibile domanda del sindaco di Piazza perché dobbiamo dare assistenza a questi, rispondiamo: perché è vostro dovere occuparvi delle persone presenti sul territorio, della loro salute e incolumità. Non farlo è una precisa scelta politica e sarete chiamati a risponderne. Se qualcuno dovesse morire perché abbandonato in strada, Linea d'Ombra annuncia di voler denunciare l'amministrazione per omissione di soccorso. Il sindaco, ossessionato dall'assessorato alle politiche sociali e in generale questa amministrazione, sono consapevoli, scrive ancora Linea d'Ombra, del pericolo che corrono tutte le persone costrette a dormire in strada con la sola protezione dei sacchi a pelo e delle coperte donate dai nostri volontari e sostenitori, senza servizi igienici e senza neppure poter accedere al sottopasso ferroviario anche in caso di pioggia e bora. Una scelta politica che Linea d'Ombra definisce feroce e che assicura di voler contrastare con ogni mezzo. Cambiamo argomento. Ieri la festa dell'Immacolata ha dato via al lungo weekend che apre la stagione invernale del turismo in montagna, ma non solo. Sentiamo allora come sono in questi giorni le presenze nei centri più attrattivi della nostra regione da Paola Schneider, presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia. In montagna ovviamente non tutti gli alberghi sono aperti, però quelli che sono aperti stanno lavorando. C'è un po' di gente che sta girando, grazie anche al bel tempo che c'è stato in questi ultimi due giorni. Le prenotazioni ci sono, e anche perché ci sono mercatini, ci sono escursioni, abbiamo fatto tutti un bel calendario per questo fine settimana. Purtroppo gli impianti non sono aperti, sono aperti solo qualcosina a Tarvisio, e questo purtroppo è un danno, ma sul meteo non possiamo farci niente. A livello invece di città, la parte del Leone la sta facendo Trieste, perché Trieste mi dicono che è una città molto vivace, dove ci sono molti turisti, gli alberghi sono pieni quasi all'80%. Udine un po' meno bene, nel senso che non c'è tutta questa vivacità, ma dicono che hanno fatto un bel ottobre, un bel novembre, e dicembre così così, però insomma, per le feste natalizie si spera che qualcosina in più ci sia. E il mare d'inverno ha un suo fascino? Attira ancora villeggianti? Ha il suo fascino, devo dire, e qualche cosa c'è sempre, qualche turista arriva. Lignano non ci sono molti alberghi aperti, però quelli che sono aperti dicono che stanno lavorando bene. Grado ha il suo fascino, e Grado credo che sia un 365 giorni all'anno, c'è sempre qualcuno che ama andare a Grado. Insomma, in generale, complessivamente a livello regionale, la prospettiva per le vacanze natalizie e del primo dell'anno, come sono? Buone, meno buone? Siete soddisfatti? Eravamo partiti molto carichi, soprattutto perché stava nevicando, per cui era una situazione ottimale, impianti aperti, eccetera, eccetera. Poi ovviamente la pioggia ha rovinato tutto, per cui un po' di entusiasmo si è smorzato, ma noi siamo convinti, insomma, che la neve arriverà. Non sarà un 100%, soprattutto a Natale, però per il weekend di Capodanno noi ci aspettiamo il tutto esaurito. Ma sentiamo com'è andata ieri allora sulle piste di Sella Nevea, l'unica località dove a causa appunto dello scarso innevamento si è potuto sciare, a parte il nuovo anello di sci di fondo dello Zoncolan. Sentiamo. Io devo fare lo ski pass famiglia 30 ore. Per la giornata inaugurale della stagione erano attesi 300 sciatori a Sella Nevea, unico polo aperto alla discesa. Saranno 700 gli ski pass staccati alla fine. Eh sì, c'è stato il pienone, mi sembra, dai parcheggi che ho visto. Anche noi qua abbiamo lavorato bene. Si è sciato solo oltre i 1800 metri di quota e solo sul versante italiano, tra il Gilberti e l'arrivo del Funifor, grazie alle copiose nevicate dei giorni passati. È la prima volta, è emozionante finalmente, e che dire, c'è un po' di traffico. Ecco. Come sciare su neve naturale? Un'altra cosa. Aperta la ristorazione in quota, praticamente senza prescistica. Quest'anno siete andati da 0 a 100 in poche ore. In un attimo, veramente. Sì, è stata una bella sorpresa, certo. Dall'altra parte c'era tanta neve, capiamo la gente che ha bisogno e ha sete di neve. La perturbazione attesa nelle prossime ore, con neve a quote più basse, potrebbe consentire l'apertura di alcune altre piste della regione da martedì prossimo. A regime, se la Nevea da quest'anno, sperimenterà la chiusura degli impianti una volta a settimana nei periodi di bassa stagione per dedicare spazio agli amanti dello sci alpinismo. Fabio Toscan, responsabile di Polo. Lo sci alpinismo partirà presumibilmente il 20 di dicembre per dopo riprendere dopo le vacanze di Natale, per riprendere dopo le vacanze di Natale verso il 10 di gennaio. La giornata dedicata sarà il martedì. Prima volta per tanti, primo giorno di lavoro per l'argentino Sebastian. La neve finora l'aveva vista solo in Patagonia. Qua al Friuli è la mia prima volta. E prima sgambata anche per i più piccoli e intrepidi. Ecco qua i due sciatori piccoli, gemelli che sì. Con tanto entusiasmo sono venuti oggi. Com'era la neve? Diciamo che è molto morbida e gelida. Sella Nevea, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il ministro ungherese degli affari esteri e del commercio, a seguito dell'incontro a Roma col ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, ha annunciato che presto potranno iniziare i lavori preparatori del nuovo terminal nel porto di Trieste. Le compagnie ungheresi potranno iniziare a utilizzarlo per le attività di export già a partire dal 2026. Il progetto, denominato Adria Port, prevede la realizzazione di un attracco e di una struttura logistica, entrambi di proprietà ungherese, da oltre 2,5 milioni di tonnellate l'anno di capacità. Sempre secondo il ministro ungherese, l'obiettivo è quello di rendere Trieste uno dei più importanti porti dell'Europa centrale. Per risolvere il problema della mancanza di personale negli uffici delle amministrazioni, a Cormons 10 comuni hanno deciso di unire le loro forze e dare vita alla Comunità del Collio. Dal 1 gennaio nasce un nuovo ente, la Comunità del Collio, 10 comuni, 20.000 abitanti. Condivideranno diverse funzioni, tributi, polizia locale, transizione digitale, ufficio personale e SUAP, lo sportello unico per le attività produttive. La messa in rete di queste competenze è necessaria soprattutto per i comuni minori che hanno risorse umane limitate. Il più piccolo è Dolegna, poco più di 300 abitanti, ha appena 4 dipendenti. Il sindaco Marco Comis. Personale è un punto critico perché purtroppo scarseggiano molto il personale addetto all'ufficio tecnico, anche gli altri settori sono un po' in crisi, ma stiamo cercando di mettere vicino delle persone valide. Altre funzioni potranno essere accorpate in futuro, anche una volta che saranno ripristinate le province. Il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro. Le province avranno altri tipi di contenuti, avranno altri tipi di competenze, riguarderanno un'area sovralocale di area vasta e che quindi di conseguenza in nulla e per nulla andranno in contrasto con quello che è la funzione della comunità. Alla firma dello statuto a Cormons ha partecipato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha parlato di una scelta di buona amministrazione, non politico-partitica. Quella del Collio è la quinta comunità che si costituisce volontariamente, secondo quanto sancito dalla legge regionale che ha superato le vecchie UTI. La stessa regione cofinanzia l'operazione. Sono già 132 i comuni che hanno condiviso funzioni volontariamente, ha spiegato l'assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti. Critico sulla Comunità del Collio e il Partito Democratico. Il processo non ha coinvolto consigli comunali e sindacati, attacca il consigliere regionale Diego Moretti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ribadire il no al nucleare sia a scopi civili che a maggior ragione a scopi militari è l'obiettivo della tavola rotonda intitolata Il nucleare in Alpe Adria, organizzata da Europa Verde con Tiziana Cimolino e Giulia Giorgi e l'ecopacifista Alessandro Capuzzo. Si parlerà della centrale nucleare di Krško in Slovenia, ma anche dei porti militari nucleari di transito di Trieste e Capodistria al Caffè San Marco di Trieste alle 20. Una tavola rotonda su pace, democrazie e diritti è in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 alla Sala Convegni della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Interverrà tra gli altri l'onorevole Enzo Amendola del PD, già ministro per gli affari europei. L'evento è promosso dall'Università di Udine, l'Associazione Norberto Bobbio e il gruppo di studi storici e sociali Istoria. Oggi e domani è in programma a Trieste una raccolta natalizia di giocattoli e dolciumi da mandare in Ucraina ai bambini della città di Mykolaiv, una delle più martoriate dalla guerra russo-ucraina. Il punto di raccolta è, come detto, in Piazza Unità, dove i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini saranno presenti dalle 15 alle 19. L'iniziativa nasce sulla scorta del legame di solidarietà che si è instaurato già nei mesi scorsi, ad aprile e luglio di quest'anno. Infatti, tra il capoluogo Giuliano e la città di Mykolaiv ci sono già stati degli scambi con raccolte di generi di prima necessità e medicinali per un totale di 55 tonnellate che sono stati poi consegnati grazie ai nostri volontari della Protezione Civile impegnati con attività umanitarie nel contesto bellico. Una cartolina per Nudem Durak, si chiama così la manifestazione in favore della cantante curda nata in Turchia, arrestata nel 2015 con la pretestuosa accusa di attività terroristica e condannata a 19 anni di reclusione in carcere. L'iniziativa promossa dal gruppo Udine per Nudem, che unisce varie anime della società civile, il festival Vicino Lontano e le librerie in comune di Udine, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di prigionieri di coscienza, verrà presentata dalla musicista Bruna Perraro e dal ricercatore dell'Università di Udine Federico Venturini al Caffè Caucige di Trieste questa sera alle 18. A Lignano si rinnova la tradizione del presepe di sabbia, ieri pomeriggio l'inaugurazione. 300 tonnellate di granelli di sabbia dorata, talento e precisione di mani sapienti hanno plasmato il presepe di Lignano Sabbia d'Oro, realizzato senza collanti o altre sostanze chimiche, solo sabbia e acqua marina. Gli abili artisti sono stati impegnati quasi 2 mesi per modellare queste opere, un percorso diviso in 4 blocchi tematici: leggenda, ipotesi, storia e teologia. Al centro la natività, l'artista Mario Vittadello. La Madonna sta coccolando il bambino sulle ginocchia di San Giuseppe. E dall'altra parte invece ho pensato di fare la natività la stessa in negativo. Il presepe, giunto alla 19ª edizione, è un omaggio ai mosaici teodoriani della Basilica Paleocristiana di Aquileia, un percorso sospeso tra storia e leggenda attraverso linguaggi artistici diversi, accomunati da 2 fili conduttori, il mare e i colori della luce. La direttrice artistica Lara Gonzo. Parla della storia del nostro territorio, origini del cristianesimo nell'Aquileiese, nell'Alto Adriatico, una storia che viene da lontano, da questo stesso mare che bagna questa spiaggia, che da più punti del Mediterraneo è arrivata fin qui, non un cristianesimo ma tanti cristianesimi differenti. Lo stupore dei visitatori davanti alle sculture di sabbia e la magia del Natale, anche per la scenografia virtuale del mare di Gona. Siamo venuti appositamente per vedere il Natale a Lignano. Da dove? Da Bassano del Grappa. Ti fa entrare di più, penso, nell'atmosfera natalizia. Il presepe di sabbia, organizzato dall'associazione Domeaghe e Savalon Daur, si potrà visitare fino al 5 febbraio. Da Lignano Sabbia d'Oro, Lucia Basso, TGR Friuli Venezia Giulia. Gorizia, città un tempo divisa dal confine della guerra fredda tra mondo liberal-democratico occidentale e mondo comunista, un trauma da cui nascono 2 città distinte, appunto la Gorizia vecchia, che resta in Italia, e una nuova, Nova Gorizia, in Slovenia. 2 città che poi tornano a fondersi in un unico contesto urbano, senza più soluzione di continuità tra Italia e Mitteleuropa, tra mondo latino e mondo slavo. Tutto questo è al centro di due convegni. Il primo, che si tiene oggi alle 17.30 al Targovsky Dom di Gorizia, e il secondo domani alle 18 all'Ex Center di Nova Gorizia, nel corso dei quali un gruppo di storici italo-sloveni presenta il risultato di nuovi studi effettuati su archivi di Roma, Belgrado e appunto Gorizia, mai consultati prima, che gettano nuova luce proprio sulla spartizione del territorio goriziano a partire dalla fine degli anni 40. Sentiamo uno degli storici coinvolti nella ricerca, Federico Tenca Montini. La nostra ricerca ci ha permesso di mettere a fuoco il ruolo di certi eventi che appunto hanno avuto luogo nella seconda metà degli anni 40. Nel 45 finisce la guerra, nel 47 c'è il trattato di pace, nell'autunno del 47, quando entra in vigore il trattato di pace e si crea più a sud il territorio libero di Trieste, si sprigionano degli episodi di violenza nella parte che viene ceduta all'Italia, Gorizia e il Monfalconese, e l'anno successivo, ufficialmente nel 1948, assistiamo alla fondazione di Nova Gorizia. Ciò che i nuovi documenti rinvenuti negli archivi, e proprio io mi sono occupato di archivi jugoslavi, permette di mettere a fuoco è l'estensione e anche la logica sottostante gli episodi di violenza che hanno bersagliato sia gli appartenenti alla comunità slovena che gli iscritti alle strutture politiche comuniste nell'autunno del 1947. Questo per quanto riguarda l'evento che abbiamo chiamato Pars Destruens, che ha luogo oggi a Gorizia. Domani a Nova Gorizia all'Ex Center ci sarà invece la Pars Construens, e quindi un evento che mette a fuoco gli aspetti sia teorici che pratici della progettazione e della realizzazione della città slovena di Nova Gorizia. Quindi una città che viene amputata, ma che in una qualche maniera si sdoppia, ecco, e poi nella prospettiva torna ad unirsi. Lei ha trovato un'espressione perfetta per definire il fenomeno, perché poi nella maggiore notorietà di cui ha goduto Berlino si cerca di vendere Gorizia come una specie di piccola Berlino, ma in realtà la cosa è stata un po' diversa. È come se una parte di Gorizia, la parte slovena, abbia avuto una difficile cittadinanza dopo la fine della guerra, e questa città si sia, come dice lei, sdoppiata, arrivando alla caduta del confine, due città divise che ritornano un unicum nel consesso europeo. Da Porzusa a Bosco Romagno è il titolo del volume di Paolo Strazzolini, che racconta la tragica fine di Guido Alberto Pasolini, fratello minore di Pierpaolo, avvenuta nel contesto dell'eccidio delle Malghe di Porzusa. La presentazione della riedizione del volume è prevista questa sera alle 18.30 a Faedis, nella sala in piazza Monsignor Pelizzo. Un brano che avrete sicuramente riconosciuto, la Bohème di Puccini, che arriva al Teatro Verdi di Trieste questa sera, l'attesissima prima alle 20.30, nell'allestimento recuperato dal 2020, che era saltato a causa della pandemia. A dirigere l'orchestra il maestro americano Christopher Franklin, opera giovane per eccellenza. La Bohème è finalmente presentata con un cast fresco e giovanissimo di cantanti attori, la cui età anagrafica invera ogni parola del libretto, come ha sottolineato lo stesso Franklin. Nella recita di apertura il tenore Azerzada interpreta Rodolfo, mentre il soprano Lavinia Bini è la sventurata Mimi. Le repliche domani, sempre alle ore 20.30, e domenica alle 16, e poi ancora venerdì, sabato e domenica della settimana prossima. Restiamo a Trieste, dove questa sera al Teatro Miela va in scena Pasolini on the Road, tratto da La lunga strada di sabbia, appunto, di Pierpaolo Pasolini, una produzione Bonaventura con gli attori Marco Puntini e Alessandro Mizzi, le musiche dal vivo di Stefano Bembi e la voce di Eva Pascale. Sentiamo il regista e attore e autore dello spettacolo Massimo Navone. Pasolini on the Road è una ricostruzione del viaggio che Pierpaolo Pasolini ha fatto nel 1959 a partire da Ventimiglia a bordo della sua 1100 lungo tutte le coste dell'Italia fino ad arrivare all'estremo confine della ex Jugoslavia. È un resoconto che gli fu commissionato dalla rivista Successo e che lui portò a termine con una perizia straordinaria, una capacità di raccontare attraverso le parole i panorami geografici e umani che quell'Italia in trasformazione si presentava al suo sguardo, che era già uno sguardo cinematografico e capace di cogliere per inquadrature, dettagli e sfumature di un'umanità che cambiava in maniera significativa dal nord al sud. Questo spettacolo propone di ripercorrere il viaggio di Pasolini attraverso i frammenti dei suoi resoconti in contrappunto con un viaggio musicale attraverso quelle che sono state le sue passioni, da Bach alla musica popolare fino a quelle canzoni di cui lui ha scritto le parole che sono diventati dei grandi successi come quelle portate in scena da Laura Betti e poi riprese da Gabriella Ferri, come per esempio il valzer della toppa. La Società dei Concerti di Trieste dà il via a una serie di appuntamenti musicali in vista delle festività natalizie. Si inizia questa sera con un concerto per organo che attinge alla tradizione natalizia cattolica con le pastorali di Pasquini e Martini e luterana con le corali di Bach e Buxtehude. A esibirsi sarà il maestro Manuel Tomadin, appuntamento alla Chiesa Evangelica Luterana di Trieste alle 19. Alle 7.44 cominciamo la rassegna stampa con il piccolo di Trieste che apre con il benvenuto UE alla Croazia. Il Consiglio dà il via libera all'ingresso nell'area Schengen, fine delle code estive ai valichi. Sotto la grande fotonotizia ci mostra una fotografia d'archivio in bianco e nero dove si vede uno storico negozio di Trieste. Il titolo: addio a Fabio Fonda, l'alfiere dei negozianti triestini vecchio stile, dove per vecchio stile si intende lo stile antecedente all'era dei ginsinari. A fianco un foyer all'aperto davanti al Rossetti, via al progetto in viale. De Bona lascia Trieste, al suo posto la concessionaria Blitz, e ancora si ubriaca e distrugge le vetrine di un'osteria in via Revoltella. Per le storie, nella parte bassa, così il pianoforte della Rovis va all'asta e l'indistruttibile Lambretta dei Vigili. Sulla prima pagina del piccolo di Gorizia cambia la fotonotizia. Qua ci sono i sindaci della neonata comunità del Coglio, patto sui servizi fra 10 comuni, e a fianco troviamo il comune vince altar per la spiaggia contesa di Marina Nova, condanna per molestie a frate Valentino ridotta a un anno, sotto il sì degli industriali per Gorizia 2025 e Lisonzo in piena blocca i fuoristrada. Ecco come cambierà la sanità sul territorio, titola il Messaggero Veneto, via libera al nuovo programma dell'assistenza territoriale che avrà il compito di alleggerire la pressione sui pronto soccorso. A centro pagina la fotonotizia racconta della prima giornata della stagione sciistica nella giornata dell'Immacolata, tra Sella Nevea e lo Zoncolan, 2000 persone in pista. Di spalla la cronaca locale del Friuli con gli incidenti stradali a Mereto di Tomba, dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un camion, e a Tricesimo con un giovane rimasto ferito dopo che l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. Il capocronaca di Udine, dedicato alla riqualificazione di San Domenico, metà delle famiglie ha già traslocato, le altre 34 dovranno spostarsi entro il 31 marzo, investimento di 23 milioni e 700 mila euro per 112 alloggi. A Pordenone invece l'apertura è per la previsione del bilancio 2023 del comune, l'energia spesa sui costi per staff e segreterie quasi 1 milione in più, rafforzati anche i bilanci per istruzione, sport e cultura, congelati invece tasse e servizi alle famiglie. Infine la sanità col posticipo di 2 anni su base volontaria del pensionamento per i medici fino al 2026, resteranno così in 10, ciò vuol dire che circa 18.000 persone nella destra tagliamento non perderanno ancora il loro medico di base. L'apertura dell'inserto che il Gazzettino dedica al Friuli riguarda la finanziaria. Infrastrutture, Udine ora in cassa. Sono diverse le opere viarie finanziate nel bilancio regionale che si approverà tra qualche giorno in aula. Tra i lavori più importanti la realizzazione dello svincolo della Ponte Bana sino a Gemona e la Palmanova Manzano. Sotto un'immagine della montagna, il titolo Montagna... ma non c'è la neve. A fianco, travolto in bici, muore dopo un volo di 10 metri. Le nuove ciclabili, si parla di Udine, nel mirino dei ciclisti. Da Tolmezzo, l'assistenza infermieristica in carcere va in appalto. Andiamo nella parte bassa, sotto per lo sport, il duo Beto Success contro il West Ham, si parla dell'amichevole di domani dell'Udinese, e a fianco per il basket Gesteco, un trionfo fuori dagli schemi. Diversa l'apertura per il Gazzettino di Pordenone, si parla sempre di finanziaria, ma il titolo è Infrastrutture, Pordenone e ultima. Sotto, imprenditrice morì nello schianto, chiesto il processo. Da Sacile, rifiuti tessili, progetto pilota in città per la raccolta. E da Pasiano, scomparso da un mese, trovato morto in un fossato. Sotto, due notizie curiose. Contro la maxi bolletta si fa messa in sacrestia, cade nella chiesa della Sacra Famiglia a Pordenone, e cambiano vita e si trasferiscono da San Paolo del Brasile al Borgo di Casso. Natale non è solo festa ma anche solidarietà. Vi ricordiamo che per tutto il weekend in tutte le piazze italiane potete acquistare le stelle di Natale dell'AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta a Leucemie, Linfomi e Mielomi. Il ricavato della raccolta fondi andrà a sostenere ricerca e assistenza alle persone malate, alle loro famiglie. Gli stand si trovano in regione, a Udine, in piazza Matteotti, via Mercato Vecchio, piazza 20 Settembre, al mercato coperto di viale Tricesimo, a Trieste, in via San Nicolò, largo Barriera, Roiano e Opicina, a Gorizia, in piazza della Chiesa, a Monfalcone, in piazzale Marcelliana, largo Isonzo e all'Emisfero, a Pordenone, in piazzetta Cavour e in corso Vittorio Emanuele II. Ma i volontari saranno presenti con le stelle di Natale anche in moltissime altre località minori della nostra regione. Sempre in questi giorni sarà possibile acquistare anche i panettoni benefici di Emergency, l'associazione di soccorso medico in aree di guerra e in situazioni di degrado e difficoltà fondata da Gino Strada. È tornata a Pordenone alla fiera Country Christmas, un weekend di totale immersione nel mondo western. Hi, hey, looking forward to the weekend, we're gonna have some fun, see you soon. Il saluto del DJ Rob Fowler apre la nuova edizione pordenonese di Country Christmas. Inglese ma residente in Spagna, uno dei maggiori esponenti della country line dance internazionale, Fowler è, assieme a David Preston, uno dei due nomi di maggior richiamo della manifestazione, che dopo 5 anni a Cremona ritorna dove era partita nel 2011 per una 3 giorni di full immersion nel mondo western e country. Isabella Ghinolfi, direttore artistico. Porta una ventata di musica country e tanto divertimento, con tantissimi DJ in arrivo da tutta Italia, con una particolare attenzione ai DJ che lavorano nella zona del Triveneto. Più abbiamo 2 coreografi internazionali, Mr. Preston e Mr. Fowler. Ci sono delle iniziative per agevolare l'ingresso di chi abita nelle zone vicine, e quindi noi contiamo di avere un discreto successo anche di pubblico non solo country. Il padiglione 5 della Fiera di Pordenone ospita la pista da ballo più grande d'Europa, con 1000 metri quadrati in legno e un grande palco sul quale i DJ si alterneranno dal mattino a notte fonda. E poi gare di ballo, stage, corsi, offerta gastronomica a tema e un mercatino, al quale partecipano commercianti specializzati in abbigliamento e accessori western, per i quali l'evento è una chance di ripartenza. Siamo stati anche a Cremona, quando l'hanno spostata a Cremona. I primi anni l'abbiamo fatta qua a Pordenone, insomma, speriamo bene dopo tutto questo passaggio brutto che abbiamo fatto. Pubblico di Pordenone non so se viene, ci aspettiamo tante corriere, magari appassionati dei balli. Dobbiamo ripartire e aver coraggio tutti quanti. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora spettacoli, una delle più famose commedie dell'età elisabettiana, Il sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Nell'adattamento della compagnia Progetto URT di Yuri Ferrini, approda questa sera al Teatro Canduni di Tolmezzo alle 20.45, poi domani sera al Miotto di Spilimbergo e quindi al Comunale di Monfalcone. Un'altra performance teatrale ambientata nel passato è Guarnerius, racconto della vita dell'umanista friulano Guarnerio d'Artegna, vissuto nel 400 con Angelo Floramo, Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, al Teatro Italia di Pontebba alle 21. Per la rassegna Dicembre Live, questa sera è di scena il polistrumentista Armando Battistone con una esibizione dal titolo Il respiro del jazz al bar Da Gio di Rivignano alle 20.30. La commedia dell'arte della compagnia teatrale Brat sarà protagonista questa sera a Grado con lo spettacolo intitolato Malacarne, la ballata dell'amore e del potere, su un testo di Marco Gnaccolini ambientato nel 1420, anno della caduta del patriarcato di Aquileia. Lo spettacolo è alle 20.45 all'auditorium Biagio Marin. Non capivo niente di friulano, pensavo che il Tai fosse una disciplina orientale. Parola di Catine, l'atterone cui Chiavei assuste, un personaggio teatrale che negli ultimi anni ha spopolato sul web e che trae origine dall'esperienza di vita di una emigrante meridionale in Friuli, Caterina Tomasulo. 9 catine e mezza, lo spettacolo leggero e allegro che trae ispirazione dalle sue avventure di vita vissuta, è in scena questo pomeriggio alle 17 al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons. E ora i libri. Questa sera alle 18 alla libreria Minerva di Trieste verrà presentato il libro di Giorgetta Dorfles, La catena spezzata, una raccolta di racconti di vite spezzate, amori interrotti, amicizie incrinate per sempre e congedi definitivi sullo sfondo di una città instabile e contesa come Trieste. Il ventennio attraverso gli occhi degli alunni degli istituti scolastici isontini è invece il tema centrale del volume bilingue Un anno di scuola, a scuola di razzismo nella Gorizia in camicia nera, realizzato dal Centro Gasparini e dalla Fondazione Sklad Dorce Sardoc. Alle 18 all'Auditorium Comunale di Ronchi dei Legionari. Da oggi a domenica 11 dicembre a Gradisca c'è il Gran Premio Noè dell'Enoteca Regionale La Serenissima, l'inaugurazione alle 11 con assaggi di diverse interpretazioni di vino friulano e alle 17.30 lo spettacolo Ridemmo Gesù de Novo del gruppo Teatro Sagrado. Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito da Alessandra Zigain, Lorenzo Gerlinzoni e grazie a Walter Vidonis per aver curato la parte tecnica e a Manuel Bussani per aver collaborato in redazione. Ancora una buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.